E benvenuti a questo appuntamento abbastanza nomade di Indie Radio, il programma di informazione indipendente che potete ascoltare solo su Radio Transizione di Fase. E questa sera abbiamo veramente, come dire, toccato il fondo, infatti siamo a ben un'ora, diciamo a 55 minuti di ritardo, il tipico ritardo cosentino, ma non ce ne vogliate a male. Infatti, la sezione, diciamo, cosentina di Indie Radio, di questo programma curato dal collettivo di gestione di Calabria Indie Media, era alle prese con una interessante iniziativa al CPUA Rialzo. Abbiamo per la verità cercato anche di mandare la diretta di questa iniziativa, non ci siamo riusciti per colpa della connessione troppo traballante. E quindi niente, abbiamo registrato e in questi giorni speriamo di poter mandare sulle frequenze di Radio Transizione di Fase questa iniziativa, che è stata anche abbastanza lunga, dobbiamo dirlo, insomma è finita proprio ora, insomma noi ci siamo semplicemente spostati di 50 metri, giusto, giusto per avere insomma un altro tipo di connessione. Ma giungiamo a noi, giungiamo cioè a Indie Radio. Giungiamo a raccontare quelli che sono i titoli, gli argomenti di questa serata. Infatti parleremo della straordinaria rivoluzione studentesca del Quebec, una regione del Canada, e ancora invece parleremo di carcere perché Marco, l'attivista italiano arrestato a Hebron in Israele, si appella alla perché appunto Israele si appella alla sentenza. E poi parleremo di Eternit, di questo fantastico materiale che uccide tutti quanti noi, Faber-Carte, infatti c'è l'amianto, ma la Carifax se ne infischia. E poi Silgagom, San Severino Marche, crolla una porzione di tetto in amianto, delle notizie davvero fantastiche. Poi parleremo di quello che accade a Napoli, dove indiscriminati disoccupati per azione. Ah, scusate, dove sono stati incriminati i disoccupati per azione contro Equitalia. E poi parleremo dell'apertura dei cantieri culturali alla ZISA a Palermo e infine Festa della Liberazione in Calabria, un'intervista all'LSA a Salto, all'Unical, viene cioè liberato uno spazio universitario il 25 aprile e il 25 aprile, sempre però a Reggio Calabria, il CSOA cartella. Compie 10 anni, questo dunque centro sociale ormai veramente fra i più vecchi, lo possiamo dire, fra i pochi anche, della Calabria, compie 25, scusate, compie 10 anni. Ma ora io direi di fare un po' di pausa, speriamo che giunga un po' di musichetta, altrimenti dovete ascoltare qualche cazzata di replica che avete sicuramente sentito. Sicuramente il segnale va e viene e non ci possiamo fare niente, vabbè. Ci dobbiamo accontentare, ma un po' di pausa fa bene alla salute. E abbiamo capito che probabilmente in questa pa abbiamo capito, come dicevamo, che in questa pausa probabilmente non avete sentito granché, probabilmente c'è stato il vuoto. O probabilmente è colpa delle nostre casse che effettivamente erano allo zero, bene, molto bene. Veramente, questa puntata di Indie Media penso che vada a toccare ampi margini di situazionismo vero e proprio. Ma abbiamo fatto da soli la nostra autoregia, infatti abbiamo potuto avere modo di capire che effettivamente il segnale forse vi giunge bene. Benissimo, ora giungiamo a quella che è la prima notizia, come dicevamo, dai nostri titoli. Parlavamo, cioè, intanto diciamo ai nostri amici in chat che siamo on air, che non è, non è i capelli, insomma, vabbè, lasciamo stare. Dunque, parlavamo di quello che accade in Quebec, un luogo abbastanza strano dell'America del Nord, una zona del Canada, una regione del Canada dove si parla la lingua francese, dove c'è sempre stato una certa grande attenzione, diciamo, a tematiche relative anche alla liberazione dagli schemi, diciamo, troppo anglosassoni del Canada, che comunque rimane sempre schiacciato dai vicini Stati Uniti. E dunque, parliamo di questa straordinaria rivoluzione studentesca del Quebec, leggendo quello che è stato pubblicato sul Newsguard Indymedia Italia. Infatti, gli studenti, i lavoratori e i movimenti che stanno lottando per montare un'efficace resistenza alle politiche del governo e all'ortodossia neoliberista farebbero bene, si scrive in questo post, a studiare ciò che sta avvenendo proprio ora nel Quebec, la più grande insurrezione studentesca della quale si sia mai sentito parlare. E poi vi sono una serie di link che vi invitiamo a visitare. Si tratta di una quarantena dell'informazione che è necessario infrangere in modo che possiamo estrarre gli insegnamenti strategici di questo movimento. Siamo ben abituati a vedere le persone brutalizzate dalla polizia antisommossa, siamo meno abituati a scene come queste. E poi ci sono una serie di link che appunto vi ricordiamo di visitare. Ora, qual è l'importanza di questa informazione? È che effettivamente siamo abituati, come dire, a pensare ai movimenti di lotta come prettamente, diciamo così, europei, o comunque poco ci interessa a volte quello che accade in altre zone lontane da noi. Ebbene, dovremmo magari cominciare a comprendere che la lotta ormai e i movimenti di resistenza sono diffusi davvero a livello globale, e magari guardando al di fuori di noi potremmo imparare anche tante altre cose importanti. E parliamo invece di questa questione ora di Marco, che è ancora in carcere. Marco è l'attivista italiano arrestato a Hebron e Israele si appella alla sentenza. E leggiamo dunque questa notizia che è stata pubblicata sul Newswire di Indymedia Italia. È stato vinto l'appello contro il rimpatrio forzato di Marco, l'attivista italiano di 32 anni arrestato ad Hebron. Ciò nonostante Israele ha deciso di appellarsi alla sentenza e il caso sarà portato davanti alla Corte Suprema domenica 29 aprile o nei giorni immediatamente successivi. Di seguito una breve cronologia dei fatti che noi cercheremo di leggere al meglio, diciamo. L'11 aprile Marco si trova a Hebron per partecipare alla conferenza internazionale sulla resistenza popolare non violenta. Sta facendo ritorno alla conferenza dopo la pausa pranzo, quando la polizia israeliana, con l'aiuto dell'esercito, arresta lui e altre 13 persone, con l'accusa di partecipare a una manifestazione non autorizzata. Come mostrano i video, non c'è stata violenza da parte degli attivisti e non era in corso alcuna manifestazione. Quindi attenzione, se andate in Israele non fate pausa pranzo praticamente. Quattro di queste 13 persone, due palestinesi e due italiani, rimangono in carcere. Ai due italiani, Marco e Giorgio, viene dato il rimpatrio forzato senza alcun processo. La qualcosa è una brutta novità anche per il sistema giudiziario israeliano. Nel frattempo, vengono entrambi spostati in un centro di detenzione per migranti in attesa di espulsione. Marco decide di resistere all'espulsione affrontando la detenzione per potersi appellare contro il fatto che gli sia stato assegnato rimpatrio forzato e carcere senza un regolare processo. Martedì 17, dopo quasi una settimana di carcere, comunque senza alcun processo formale accusa, Giorgio viene rimpatriato. L'appello contro il rimpatrio di Marco ha luogo lunedì 23. Il giudice si riserva di decidere l'indomani. Nel frattempo Marco viene trasferito nel carcere per i detenuti comuni di Givon. Martedì 24 il giudice non si presenta e mercoledì 25 la sentenza afferma che l'appello è stato vinto da Marco. In tutto questo tempo l'attivista per i diritti umani resta in carcere. Nonostante sia stato vinto l'appello, le forze di occupazione si controappellano chiedendo l'intervento della Corte Suprema. Questo secondo processo dovrebbe aver luogo domenica 29 o nei giorni immediatamente successivi. Nel frattempo Marco resterà in carcere pur non esistendo alcuna accusa formale nei suoi confronti. L'arresto e la tentata espulsione ai danni di Marco si inseriscono all'interno di un'escalation ai danni degli attivisti in difesa dei diritti umani che si recano o manifestano l'intenzione di recarsi nei territori occupati palestinesi. Il 15 aprile a 1200 attivisti internazionali dei 1500 flottiglia Welcome to Palestine è stato impedito di raggiungere la Cisgiordania. Il 17 aprile nella Valle del Giordano un attivista danese è stato colpito al volto da un soldato israeliano con un fucile d'ordinanza, la mitraglietta M13. L'attivista partecipava a una manifestazione non violenta che consisteva in un tour in bicicletta. La violazione dei diritti fondamentali e l'incarcerazione senza motivo dei palestinesi resta invece tragicamente costante. Martedì 17 aprile, 1200 palestinesi detenuti nelle carceri israeliane sono entrati in sciopero della fame. Il nome che hanno dato alla loro protesta è We Will Live in Dignity. Noi vogliamo vivere in dignità. Vivremo dignitosamente. Sono infatti più di 4.700 prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane, tra questi 9 donne e 190 minori, alcuni hanno 12 anni. Circa 322 prigionieri sono in detenzione amministrativa, questo vuol dire che non è stata formalizzata contro di loro alcuna accusa. I prigionieri sono oggetto di tortura e non hanno diritto a ricevere visite dai familiari. Quindi davvero una situazione drammatica che ci fa riflettere su quella che è la brutalità di questo stato israeliano, che definire fascista è forse anche un complimento, insomma. E ora un momento di pausa, giusto per buttare la gommina che abbiamo in bocca, ce lo concedete? Sì. E blocchiamo il pezzo in maniera veramente barbara, ma non possiamo fare altrimenti perché, insomma, stiamo facendo questo programma in una condizione davvero molto, molto precaria, come dicevamo, quindi siamo praticamente con un piccolo computerino. Vabbè, non lo diciamo, vai, che ci stiamo sputtanando anche su Indie Radio, e non è il caso. Parliamo ora di amianto, un tema davvero molto, molto scottante. E parliamo dunque di questa notizia che è comparsa sul Newsguard di Indimedia Italia e ci dice: Faber-Castell, c'è amianto. ma la Carifax se ne infischia. All'interno dello stabilimento i calendari sono fermi al 2005. È in quell'anno infatti che gli ultimi 73 dipendenti della Faber-Carta di Castel Raimondo restano senza lavoro. Quindi, diciamo, un'altra di quelle storie alle quali ormai siamo abituati, fabbriche che chiudono e va bene, ma vediamo che cosa c'è sotto. Già in febbraio sono costretti a ricorrere alle ferie. La cessazione delle quote da parte della maggior azionista, la Cartiere Milani, a un'azienda di Cerrerodesi che produceva bobine di carta per calcolatrici, fax, bancomat, eccetera, la Beta Rotoli, non era servita a niente, nonostante almeno per i primi tempi i lavoratori fossero ben impressionati dal piano di riassetto produttivo. In realtà, dopo pochi anni, anche la Beta Rotoli falliva, lasciando aperta la strada solo alle aste giudiziarie per questa enorme area di 12.500 metri quadri situata a pochissima distanza dall'abitato di Castel Raimondo. Oggi lo stabilimento versa nel più totale abbandono e desolazione. La rete che divide l'ex cartiera dallo stradino che conduce all'isola ecologica comunale è ampiamente rotta in più tratti e accedervi non è un problema. Nel cortile della fabbrica un'enorme bobina di carta arsa dal sole e consunta dalla pioggia ricorda tristemente a qualcuno i bei tempi in cui l'enorme macchina pattinatrice avvolgeva carta a più di 500 metri al minuto. Quella macchina, all'epoca all'avanguardia delle tecnologie e gloria dello stabilimento di Castelmondo, è stata smembrata al momento della riconversione e i pezzi sono finiti, chi dice in Brasile, chi dice in Turchia, chi ancora in altri paesi più esotici. Lo stabilimento è di fatto abbandonato a se stesso da quasi 7 anni. I macchinari sono stati quasi tutti tolti. È come entrare all'interno della carcassa di un gigantesco animale sviscerato. Si vaga soltanto ogni tanto per i rumori amplificati che fanno i piccioni muovendosi tra le travature. I capannoni sono ingombri di lana di roccia, un materiale isolante probabilmente usato per la controsoffittatura e ora sparso al suolo in agglomerati informi. Gli uffici amministrativi si presentano ricoperti da una coltre di documenti. Ci sono faldoni che si accatastano in qualche angolo e carte sparse dappertutto, tra cui i vecchi operai potrebbero ritrovare le loro firme, ricostruire episodi, frammenti del loro quotidiano all'interno dello stabilimento. C'è di tutto, compresi i certificati di smaltimento delle sostanze chimiche impiegate nella lavorazione. Qualche bidone pieno non si sa di che cosa campeggia ancora tra i cumuli di materiale in disfacimento. Ma quello che si vede dalla statale settempedana, la strada che collega Castel Raimondo a San Severino Marche, la vecchia Septempeda dei Latini è forse ancora più sconcertante. Una distesa, scusate, di onduline in cemento amianto Eternit ricopre una metà dello stabilimento per un'estensione di 6.000 metri quadri. Nel settembre del 2007, su incarico del curatore fallimentare, una ditta specializzata esegue una perizia su questo amianto, regolarmente depositata al Tribunale di Ancona, nella quale, pur non riscontrandosi uno stato di usura tale da determinare al momento la pericolosità, si consigliava di monitorarne lo stato almeno ogni 2 anni. Infatti, citando dalla relazione, la vetustà di tali coperture prive di rivestimenti specifici ed esposte agli agenti atmosferici non garantisce il completo trattenimento delle fibre. Questo nel 2007. L'anno successivo, in febbraio, si tiene la terza asta giudiziaria. Il prezzo dell'immobile viene ribassato anche tenendo conto dei costi di trattamento e lo smaltimento delle lastre di Eternit. Si giudica l'ex fabbrica, la cassa. Scusate che qui ci sono persone che rompono un pochino e non si rendono conto che stiamo facendo un programma. Si aggiudica l'ex fabbrica la cassa di risparmio di Fabriano a Cupramontana, Carifac. Solo che da questo momento la banca, che fa capo al gruppo Veneto Banca, si disinteressa completamente dello stato della struttura e si disinteressa completamente anche dell'amianto, con la complicità di un'amministrazione comunale che non svolge le dovute pressioni perché il gruppo bancario rispetta gli impegni presi al momento dell'acquisto. Le lastre di Eternit non ricevono alcun trattamento, ma rimangono esposte all'azione degli agenti atmosferici. Vento, sole, pioggia e abbondanti nevicate. Nessuno si preoccupa né di monitorare né come era esplicitamente consigliato nella relazione tecnica, né tantomeno di trattarle tramite la normale procedura di incapsulamento, con la quale si eliminano temporaneamente i rischi di emissione di fibre, o di farle rimuovere e smaltire adeguatamente. Mentre i responsabili tacciono o dicono di non sapere, tutta l'area dell'ex fabbrica posta di fronte alla frazione di Selvalagli di Gagliole e a poche centinaia di metri dall'abitato di Castel Raimondo, da scuole e asili, in un'area non adeguatamente protetta a causa degli squarci della recinzione, può rappresentare un problema per la salute dei residenti. Ma c'è qualcuno a cui importa qualcosa? E l'articolo molto letterario, diciamo, che abbiamo appena letto e che è stato appunto pubblicato su Italy Indie Media, porta la firma di Aldo Castellani. Un'unica cosa che ci sentiamo di dire è che anche se le recinzioni sono perfettamente integre, l'Eternit, le fibre che rilascia questo materiale viaggiano per chilometri e chilometri, proprio come abbiamo sentito all'ultima iniziativa che abbiamo trasmesso in diretta qui da Cosenza, curata dalla rete di difesa del territorio franconistico, che appunto parlava delle pericolosità dell'amianto. Ma non finisce qui, infatti abbiamo trovato sul Newsguard Indie Media Italia un'altra questione relativa sempre all'amianto. Infatti si parla di Silga Gomme, San Severino Marche, crolla una porzione di tetto in amianto. C'è stato un rumore fortissimo, sul momento ho pensato al deragliamento di un treno, visto che proprio qui vicino passa la ferrovia. Mi sono affacciato e ho visto una specie di enorme palla di neve levarsi in aria dalle parti della Silga Gomme. Questa è una delle testimonianze raccolte su quanto è successo la sera del 13 febbraio 2012, quando tutte le Marche erano sepolte da una coltre di neve. Sotto il peso del manto nevoso sono crollati circa 2.000 dei ben 10.000 metri quadri di copertura in amianto della Silga Gomme, una fabbrica dismessa, giusto per cambiare, alle porte di San Severino Marche. Il crollo ha interessato tutta la porzione posteriore centrale della fabbrica, non visibile dalle strade. Un po' per questo, un po' per le difficoltà causate dalla neve, la notizia è passata inosservata e nessun quotidiano ne ha parlato. La Silga Gomme ha una storia simile, purtroppo, a quella di molti siti industriali della zona. Nel 2008, in piena crisi economica, si comincia a ventilare la chiusura dello stabilimento, che la direzione giudica non più redditizio. L'area viene smantellata, poco a poco dimenticata, senza che le strutture rimaste ricevano evidentemente un'adeguata manutenzione. Per di più, la fabbrica, come molte altre costruzioni antecedenti al 1992, anno in cui viene promulgata la famosa legge anti-amianto, aveva come copertura le onduline in Eternit, che nelle Marche è ancora assai frequente, un po' in tutta Italia, aggiungiamo noi, incontrare non solo nelle campagne, ma all'interno delle città. Nella stessa San Severino ne è un esempio l'area, anche questa dismessa, della Simeg. I cui tetti di Eternit sono contornati da condomini in pieno centro città. La Silga Gomme si trova invece in posizione più defilata, ma comunque nelle immediate vicinanze di abitazioni e attività economiche. Più discosto, a circa 300 metri, c'è il quartiere residenziale di San Michele. È proprio un comitato di cittadini di questo quartiere a sollevare il problema della presenza di amianto con un esposto in comune del 2010. Come spesso accade, si è ritenuto opportuno muoversi soltanto su segnalazione dei cittadini. Il sopralluogo, fatto immediatamente da una ditta privata incaricata dall'azienda, la SEA, di Tolentino, e successivamente, nel settembre del 2010, dalla SUR competente, non rileva problemi. Solo che la verifica viene fatta ovviamente sullo stato della copertura in amianto e non sulle strutture portanti. La sera del 13 febbraio sono due campate a cedere sotto il peso della neve, trascinando con sé le onduline in Eternit che si spaccano fragorosamente al suolo. I detriti sono ormai ora rimossi, con una bonifica gestita dalla stessa SEA di Tolentino, ma a destare preoccupazione è la situazione della restante copertura in Eternit, che continua per il momento a rimanere sul posto, in condizioni assai precarie. Si evidenziano infatti crepe, fratture e numerosi fori, anche di origine precedente all'evento, come si legge sul rapporto dettagliato redatto dalla SEA. Dunque la situazione della copertura, anche prima della nevicata, non era così buona come invece sembrava, dai sopralluoghi effettuati nel 2010 dalla stessa SEA e dall'ASUR. Il piano di bonifica prevede lo smantellamento integrale della copertura in amianto e il suo relativo smaltimento. La proprietà dell'azienda ne ha assicurati il rispetto in tempi rapidi. Ce lo auguriamo e ci auguriamo anche che altrettanto venga fatto sul sito della Simeg. Un crollo in quell'area, determinato da situazioni eccezionali come quelle verificatesi nello scorso inverno, potrebbe avere ripercussioni ben più grandi sulla salute dei cittadini residenti, che è dovere delle istituzioni tutelare. Passiamo ora ad un altro argomento. Passiamo a Napoli, dove vengono incriminati i disoccupati per azione contro Equitalia. La Procura di Napoli ha rinviato a giudizio 8 attivisti del movimento dei disoccupati e dei movimenti sociali per l'occupazione simbolica di una sede di Equitalia. Una intimidazione evidente contro chi alza la testa contro le misure e le istituzioni antipopolari. Un appello alla massima solidarietà. Procura della Repubblica di Napoli, nella persona del sostituto procuratore Urbano Mozzillo, ha chiesto il rinvio a giudizio per 8 attivisti del movimento sociale dei movimenti sociali Michele Franco, Monteleone, Luigi Bianco Paolo, vabbè, i nomi non li leggiamo, scusate, no, non volevamo. E queste persone appunto sono state accusate di presunte devastazioni ed interruzioni di servizio che sarebbero avvenute nella sede di Equitalia S.p.A. sita a Corso Meridionale a Napoli. I fatti naturalmente hanno avuto un corso diverso. Il 17 dicembre 2010, oltre 200 tra i disoccupati cittadini esasperati dall'odiosa persecuzione giudiziaria ed economica esercitata da Equitalia, si recarono alla sede di questa società interrompendo per pochi minuti il funzionamento degli sportelli. Durante questa protesta simbolica, i manifestanti chiesero di essere ricevuti dall'allora assessore al bilancio del Comune di Napoli, Michele Saggese, il quale nell'incontro che si svolse a Palazzo San Giacomo si impegnò a esercitare il potere dell'amministrazione comunale verso la società di riscossione con l'obiettivo di tutelare le fasce sociali deboli e più esposte verso gli inauditi tassi di interesse richiesti da Equitalia. Tutta qui la cronaca dei fatti. In un comunicato, il coordinamento di lotta per il lavoro di Napoli e il centro sociale Carlo Giuliano dichiarano che, a distanza di qualche anno, possiamo rivendicare con orgoglio quella forma di protesta perché fu la prima che mise sotto accusa il comportamento illegale, persecutorio e truffaldino di Equitalia Polis S.p.A., la quale, nel corso del tempo, è stata più volte condannata da numerose sentenze che hanno rilevato pratiche illegali contro i cittadini. In tal senso ci appare spropositata la richiesta della Procura della Repubblica Partenopea, la quale sceglie ancora una volta di schierarsi dalla parte dei poteri forti economici a discapito della tutela economica e sociale dei ceti popolari. Di fronte al fatto che oggi Equitalia è diventata all'evidenza di tutta l'opinione pubblica una istituzione vessatoria che contribuisce a rendere invivibili le condizioni di vita di milioni di proletari in questo paese, i due movimenti sociali napoletani rivendicano quindi quella protesta pacifica e confermano il nostro sostegno a tutti i movimenti di lotta che difendono il reddito, i diritti e la dignità dei lavoratori, dei precari e dei disoccupati. Eravamo stati amari profeti quando avevamo denunciato con largo anticipo che il governo Monti avrebbe usato tutti gli strumenti coercitivi a disposizione, dalla magistratura alla polizia, per impedire ogni protesta e opposizione alle misure antipopolari che sta adottando per intimidire i movimenti sociali organizzati. Dopo la Val di Susa, Roma, Torino, da Napoli giunge una ulteriore conferma. Invitiamo tutti coloro che leggono il nostro giornale a solidarizzare pubblicamente e concretamente con i disoccupati e gli attivisti sociali napoletani rinviati a giudizio. E questo articolo, che è stato pubblicato sul Newswire di Media Italia, è in realtà stato pubblicato dal giornale Contropiano, e quindi per questo motivo avete sentito, insomma, che io dicevo legge, eccetera, eccetera, insomma. Va bene così. Ora non so, facciamo un po' di pausa o andiamo avanti? No, io direi che si può andare avanti. E poi c'è qualcuno che mi parla di un attentato. Questa è una notizia che sto leggendo dal nostro canale, dalla nostra chat, dalla chat cioè di Transizione di Fase, alla quale potete accedere, ve lo ricordo, attraverso il nostro sito, ovvero su transizionedifase.org. c'è chat, voi pigiate lì il bottoncino e seguite poi i vari processi, vi scaricate Java se non ce l'avete, insomma, è molto facile. Ebbene, sulla chat mi dicono che a Villa Piana ci sono state 4 persone uccise a colpi di arma da fuoco. E pare che non si tratterebbe di un agguato di mafia. Quindi non ne sappiamo nulla. Chi ci ha dato la notizia ora è andato a fare la doccia, quindi niente, non ce lo può dire più che cosa è successo. Quindi rimaniamo in attesa di notizie, se ci giungono in diretta, perché questa volta in di radio, come non accade quasi mai, è in realtà trasmessa in diretta. Quindi se ci sono informazioni e nuove notizie, noi interromperemo il flusso delle nostre notizie in scaletta per darvi ulteriori ragguagli. Ma ora andiamo avanti. andiamo avanti e nel buio, perché ci piace il buio. Farlo al buio è sempre bello. Fare al buio in radio è sempre una bella esperienza. E ora parliamo invece di qualche questione che riguarda gli spazi sociali. Siamo dunque giunti alle ultime notizie della serata, in realtà, e questo comunque è una questione che ci interessa pure molto, molto carina. Insomma, a Palermo viene aperta, vengono aperti i cantieri culturali alla Zisa. E leggiamo dunque questo articolo che viene pubblicato questa volta su Indie Media Calabria. Dopo mesi di battaglia politica e dopo le iniziative di cultura bene comune, che a partire da gennaio hanno riportato i cittadini dentro gli spazi abbandonati dai cantieri culturali alla Zisa, il movimento I Cantieri Che Vogliamo riapre la sala cinematografica dei cantieri, che abbiamo intitolato A Vittorio De Feta. Da mercoledì 25 aprile, festa della Liberazione, i palermitani possono finalmente riabitare l'unico cinema pubblico della città, realizzato e tenuto chiuso da più di 4 anni per la colpevole insipienza di chi ha amministrato in questi anni Palermo. La città può così ritornare a riappropriarsi di un bene comune che torna alla libera e pubblica fruizione. L'apertura di questo cinema, così come quella del Teatro Garibaldi, è avvenuta grazie ai lavoratori di un gruppo. E poi vi ricordiamo che su Calabria Indie Media potete trovare informazioni anche relative alla questione del Teatro Garibaldi, che negli scorsi giorni di aprile, nelle scorse settimane dei primi di aprile, è stato appunto liberato. Ci sono dunque artisti della città che testimoniano il percorso che Palermo sta compiendo a sostegno della riapertura dei suoi luoghi negati. Rappresenta tutto ciò il segno di una volontà dei cittadini di prendersi cura dei loro spazi di crescita e di confronto e conferma il processo collettivo di rinascita civile e culturale che unisce chi da mesi ha messo le arti, la cultura e lo spazio pubblico al centro del discorso su Palermo e sul suo futuro. Il comitato indice una conferenza stampa per martedì 24 aprile alle ore 13 presso la sala del cinema De Feta, in cui i portavoce del movimento hanno presentato, noi leggiamo al passato ormai perché questo articolo è stato pubblicato alcuni giorni fa, presentano appunto i contenuti e il calendario di attività dal titolo Apriamo, che si articola fino appunto al 2 maggio. E poi vi sono tutta una serie di nominativi che hanno aderito a questa iniziativa molto bella che salutiamo con grande interesse e ci auguriamo possa proseguire nella liberazione degli spazi. Intanto vi ricordiamo che sempre il 25 aprile, risalendo un po' più a nord rispetto a Palermo ovviamente, giungiamo a Reggio Calabria dove cogliamo anche questa occasione per fare i nostri migliori auguri al centro sociale Angelina Cartella che appunto il 25 aprile scorso ha compiuto 10 anni. Ci sono state tante belle iniziative. Tante belle cose, un unico neo legato ai fatti di ECN, come tutti voi sapete. Infatti, la polizia, l'FBI ha oscurato un server di ECN che si trovava negli Stati Uniti, a New York precisamente, per via di una questione di una mail anonima che è stata, appunto, che è partita attraverso un servizio di ECN. Ho ospitato proprio su quel server, quindi l'FBI pensa bene di colpire tutti per educarne uno, insomma, cioè, veramente cosa pazzesca, ha oscurato un intero sito per colpa di una cosa del genere, per una mail del genere, che poi comunque era impossibile da andare a individuare, perché non conservandosi i log, sappiamo bene che non si può conservare traccia di chi ha, come dire, mandato questi mail, che erano una serie di mail di minaccia, vabbè, a un'università di Pittsburgh. Che cosa c'entra tutto questo con il centro sociale Angelina Cartella di Reggio Calabria? C'entra perché per alcuni giorni il centro sociale Angelina Cartella, così come altre realtà di movimento, associazioni, eccetera, eccetera, ha visto il suo sito oscurato. Il sito infatti era ospitato su quel server, quindi per alcuni giorni, proprio i giorni del 25, del decimo anno di vita dell'Angelina Cartella, ha visto Angelina Cartella, il centro sociale di Reggio, priva proprio del suo sito, quindi una cosa molto grave. L'FBI dovrebbe pagare le conseguenze di tutto questo, dovrebbe almeno risarcire chi ha avuto il proprio sito oscurato. A ogni modo, tanti auguri ad Angelina Cartella. E ora invece leggiamo. Facciamo un po' di pausa, io direi, e poi parleremo dell'ultima notizia, se ci riusciamo ascolteremo anche un'intervista. Infatti parleremo della festa di liberazione, invece questa volta all'Università della Calabria, dove l'LSA a Salto ha riaperto un'auletta. È 25 aprile, qui all'Università della Calabria si festeggia la liberazione, liberazione di spazi, un'università che soprattutto negli ultimi anni, soprattutto nell'ultimo anno in particolare, ha conosciuto anche una forte azione repressiva da parte del nostro magnifico rettore La Torre, che distrugge spazi, chiude aule, insomma fa un po' di tutto, dopo che ha anche modificato lo statuto dell'università addirittura per riuscire a riconfermare per la terza volta il suo mandato rettorale. Insomma, questo rettore che vabbè, lasciamo stare. E quindi siamo qui all'Università della Calabria, al polifunzionale nell'area vecchia dell'Università della Calabria, per chi insomma conosce un po' le dinamiche di questo giovane università, e siamo qui con un giovane assalto. Allora, giovane assalto, che cosa ci dici di oggi, di questa giornata? Innanzitutto buonasera, diciamo, perché qui è sera. Allora, noi questo 25 aprile innanzitutto è da festeggiare per il suo valore storico, e come si dice, la lotta contro l'oblio, contro il potere, è sempre la lotta della memoria contro l'oblio. Quindi con questa cosa, vittima di uno sgombero quest'estate, uno sgombero diciamo codardo, mentre noi eravamo a lavorare nei vari paesini per pagarci poi la tassa universitaria sempre in perenne aumento, la polizia ha sgomberato e ha cancellato diciamo l'aula Zenit Cubo 13 all'Università della Calabria. Questo era il nostro progetto di come laboratorio sociale autogestito Assalto, il che abbiamo passato questi mesi comunque sia essendo attivi, facendo iniziative di lotta come diciamo a sostegno dei NOTAV, altre presentazioni di libri, comunque abbiamo tenuto attivo la nostra linea politica. Poi abbiamo ponderato all'occupazione, perché diciamo l'occupazione ora è come nodo base non solo di un collettivo in questione ma del movimento in sé, e abbiamo optato per delle aulette che sono in disuso da ben 6 anni, e più che disuso parlerei di vero e proprio degrado, in quanto sono incatenate, cioè sono chiuse, sbarrate, e all'interno c'era polvere di tutto, abbiamo fatto anche delle foto per documentare questo, e abbiamo deciso allora di riappropriarci di questo spazio, che è solo una restituzione legittima agli studenti di ciò che gli spetta, erano 2 aule completamente vuote, diciamo disagiate, da far schifo, e quindi ora abbiamo deciso di lanciare questa giornata che è stata appunto l'occupazione dello spazio, la ribonifica, la liberazione e l'occupazione conseguente dello spazio, e poi festeggiando giustamente in modo molto ricreativo con una festa, anche perché con la socialità facciamo anche la rivoluzione, è importante. Ebbene, guarda, un'ultima cosa, questi studenti oggi come vivono in questa università che sinceramente sembra sempre di più non un luogo appunto di socialità, bensì un luogo di un laureificio, diciamo così. Insomma, gli studenti quando entrano qui come la vivono, che prospettive hanno? Beh, innanzitutto io parto dal mio discorso di militante, quindi cerco di guardare in modo molto, diciamo, molto più teorico. Non possiamo dire che dagli anni 80 in poi, con la riforma Ruberti, l'università non è diventata altro che luogo dove appunto fare la vera e propria mano d'opera. Cioè gli studenti li preparano al mondo del lavoro, di questo lavoro che diciamo è puro sfruttamento, e quindi le condizioni poi di studente dopo la riforma Gelmini, ancora c'è cioè, da attuare con i vari statuti attuativi, però cioè, siccome già era peggiore e abbiamo contestato poi questa riforma, si andrà sicuramente peggiorando. E voglio fare anche un appunto, cioè, ed è una cosa veramente scomoda secondo me, tutta questa burocrazia che c'è all'interno dell'università. Il ciò comporta quindi servizi concreti che sono del tutto sballati e inefficienti, cioè, sono andati in segreteria per chiedere l'informazione, per esempio ci voleva una lettera del rettore, un'autorizzazione, cose proprio scandalose. Le tasse sono sempre in costante aumento, e quindi su cose brutte. Poi qui a Cosenza abbiamo problemi di alloggi e abbiamo visto che il rettore ha costruito un centro ricreativo, fra virgolette, di 3 alloggi pagati 1 milione di euro che sono in disuso, sono qui proprio vicino all'università. Bene, questo poi il punto sta a capire, ma tu così riesci a mobilitare, cioè cosa pensano gli altri studenti che non hanno una coscienza politica? Beh, la cosa è di passività, onestamente. Che poi ci sia una rabbia latente, lo crediamo e speriamo sfoci ben presto, però c'è un'enorme passività, il che bisogna che cioè, la nostra diciamo, attività, la nostra azione deve essere ancora più forte. Magari si riuscirà a raggiungere i fantastici risultati di qualche anno fa, quando si vedeva lungo le strade dell'università quei grandi cortei che poi andavano a bloccare autostrade e che facevano parlare un po' tutta Italia, anche della piccola Cosenza. Insomma, un'ultima cosa, ultimissima, e poi andiamo a vedere il film Diaz, vero? Oh, bene, oh, bellissimo. In anteprima, benissimo. Noi siamo venuti apposta per questo motivo. Le prossime azioni diciamo politiche dell'LSA a Salto? Allora, diciamo che a breve è innanzitutto opportuno accertarci che l'occupazione vada a buon fine, quindi presidieremo quotidianamente con assemblee di gestione e questo diciamo a breve termine, poi a medio termine non vi so dire ancora perché siamo impegnati proprio con questa occupazione, quindi assemblee quotidiane, ecco questo. Ok, allora buona occupazione e buona festa della liberazione a tutti quanti. Okay, grazie, ciao ciao. Auguri. E interrompiamo nella solita maniera brusca un bellissimo pezzo dei Cure. Ci scusiamo con i Cure e con tutti gli ascoltatori che magari stavano veramente assaporando questo fantastico pezzo. E continuiamo a parlare della nostra ultima notizia. Vi ricordo che state ascoltando su Radio Transizione di Fase, Indie Radio, il programma di informazione indipendente curato dal collettivo di gestione di Calabria Indie Media. Questa sera siamo in estremo ritardo, anche perché il pirata non c'è più, ma stiamo anche trasmettendo in diretta addirittura. Quindi è per questo motivo che state ascoltando vari scleri e varie cazzate, insomma, che ci connotano e lo sappiamo. Leggiamo dunque di quello che è accaduto all'Università della Calabria il 25 aprile del 2012 e leggiamo il comunicato dell'LSA a Salto, liberiamo spazi per resistere. Il 25 aprile 2012 studenti e precari festeggiano la vittoria sul nazifascismo fuori da ogni retorica della vuota ricorrenza con un atto di moderna resistenza. Ci siamo riappropriati di due aule dell'Università della Calabria, la 40 e la 41, lasciate al totale degrado ed abbandono, chiuse e sigillate da quasi 2 anni. Durante la giornata il posto è ritornato a vivere come laboratorio sociale con assemblee, proiezioni video e con una festa che ha visto la partecipazione di centinaia di persone. Questi luoghi erano stati sottratti agli studenti e alle studentesse che li autogestivano e li facevano vivere di cultura, socialità e lotta. Tutte cose scomode e indigeste al potere che soprattutto nel campus di Arcavacata ha reazioni sconsiderate ogni qualvolta la rabbia e l'auto-organizzazione si incontrano nelle occupazioni, nelle autogestioni, nei movimenti, mentre non perde tempo ad erigere monumenti allo spreco come il nuovo centro di aggregazione giovanile con i fondi delle tasse degli studenti, abbassando contemporaneamente il livello dei servizi. La riappropriazione di questi spazi è stata la migliore risposta che si poteva dare agli sgomberi, orchestrati dalla mano di un rettore che in un delirio di autoritarismo ha cercato di imporre la trasformazione del campus in un non luogo, un mero esanificio vuoto di attività e contenuti in cui la voce dei precari e degli studenti venisse ridotta al silenzio. L'incuria e la rovina a cui erano destinate queste aule non sono solo l'emblema di una gestione feudale e dispotica dell'Ateneo, che si protrae da quasi 20 anni a colpi di rinnovo del mandato e di contentini elargiti a baroni e faccendieri, ma anche sintomo della crisi che sta attraversando l'università italiana, distrutta da decenni di scellerate controriforme e tagli, ultime delle quali la tanto contestata riforma Gelmini-Tremonti. Dietro E oltre questa crisi e questi luoghi abbiamo portato avanti percorsi e battaglie con ancora maggiore determinazione attraverso iniziative, assemblee, dibattiti e azioni politiche, espressioni della rabbia e del disagio sociale che nel collasso del capitalismo diventano sempre più irrappresentabili, incompatibili e irriducibili alla mediazione. Il feroce attacco ai diritti, alle libertà e alle condizioni di vita vorrebbe trasformarci sempre di più in agnelli sacrificali da portare all'altare dello spread, del debito e della speculazione finanziaria. In questo contesto occupare spazi significa opporsi alla crisi sistematica di un modello di sviluppo che per rigenerarsi non può che accrescere la polarizzazione sociale tra chi è costretto a pagare i costi della crisi e chi su questi costi continua ad arricchirsi. Opporsi e lottare quindi, ma anche iniziare a praticare dal basso nuovi modelli sociali aggregativi che dovranno inevitabilmente andare a soppiantare quelli esistenti. Far vivere questo posto significa anche dar voce e corpo a tutti quei movimenti sociali che dalle montagne della Val Susa fino alle sponde sud del Mediterraneo parlano il linguaggio conflittuale di quelle comunità resistenti che stanno trovando dentro la crisi lo spazio per iniziare il proprio percorso di liberazione. Le stesse comunità che in ogni 25 aprile dal 1945 in poi non vedono un punto di arrivo ma l'inizio di un nuovo percorso, di un nuovo assalto. Un 25 aprile, conclude l'LSA, assalto si può sempre ripetere. E ora viene il bello, sì, ebbene sì, vediamo se riusciamo a mandare in onda questa intervista che abbiamo realizzato proprio in questa giornata, nella giornata del 25 aprile. Intanto vi ricordo che avete ascoltato su Transizione di Fase il programma di Indie Radio, il programma curato dal collettivo di gestione di Calabria Indie Media, un programma che sempre che accetta sempre ben volentieri ogni forma di collaborazione che vorrà arrivare, quindi contattate il nostro sito, cioè contattate calabria.indimedia.org attraverso iscrivendovi alle in lista o mandandoci semplicemente un'email attraverso i contatti che troverete proprio esplicati sul sito. Fate visita anche alla chat di Indie Media Calabria che è registrata su IRC, vabbè, ma questa forse è una cosa già un po' più complicata. Se volete comunque entrare in contatto con noi attraverso la chat, vi consigliamo di utilizzare quella di Transizione di Fase, perché semplicemente se c'è, diciamo così, sul sito di Transizione di Fase proprio la possibilità di accedere tramite senza dover scaricare nessun programma, se non Java, senza comunque dover scaricare programmi quali XChat, che sono comunque molto semplici da utilizzare, però ci rendiamo conto di essere sempre un po' nel nerdismo, quindi niente. Beh, ora la facciamo veramente breve, vi ricordo che avete ascoltato Indie Radio, potete ascoltare la replica sabato alle ore 20:30 e intanto vi diamo appuntamento al prossimo venerdì. Ora vi ricordo, ascolteremo l'intervista realizzata ad un esponente, un giovane esponente dell'LSA Assalto, uno studente universitario che dunque ci racconta un po' che cosa è successo e che speriamo bene, insomma, andiamo, ecco qua. Ci vuole sempre un po' di pausa perché insomma, però forse ci siamo, E se ci siamo riusciti, avete ascoltato l'intervista a un giovane esponente dell'LSA Assalto. E che altro dire? Diciamo che questa volta in radio è durata per più di un'ora. No, è durata... No, più di un'ora no. Insomma, ci compiacciamo di questa cosa. E vi diamo appuntamento alla prossima... puntata di Indie Radio nel mese di maggio, insomma scadiamo nel mese di maggio e vediamo che cosa succede. Per il momento è davvero tutto, chiudiamo i microfoni e andiamo via da questa situazione che vi ricordo è veramente molto molto precaria. Quindi niente, vi salutiamo. Noi questa cosa del saluto non la sappiamo fare perché poi ci piace sempre parlare, quindi continuiamo a parlare. Comunque, magari niente, prima o poi faremo una puntata speciale di 20 ore e quindi saremo soddisfatti. Per ora è veramente tutto comunque, perché forse andiamo a mangiare una fantastica cena sociale al rialzo, vediamo se è rimasto qualcosa, ma dubitiamo fortemente. Speriamo che per i media attivisti siano sempre tempi migliori, mentre in realtà siamo sempre relegati tipo topi di biblioteca, insomma, sempre relegati negli angoli a fare, a dire fili, carico, e va bene, e questa, e poi alla fine nemmeno la cena, e vabbè, che ci possiamo fare? A ogni modo, Indie Radio vi saluta qui e vi lascia alle programmazioni, fantastiche programmazioni musicali di Radio Transizione di Fase, una radio che prende bene.